You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Bentrovati a tutti quanti, ancora una volta piombiamo nel 2013 direttamente dagli anni 60 con questo pezzetto di voce del doppiatore italiano dell'indimenticabile Spencer Tracy. Il film da cui è tratto questo spezzone, l'avrete riconosciuto, è Indovina chi viene a cena, un film appunto degli anni 60, un film americano che parlava di coppie miste, pregiudizi razziali, l'integrazione fra culture allora in America, temi che purtroppo restano anche attuali, ma noi pensiamo che si possano superare come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni, no? Può capitare di avere un pregiudizio negativo per un certo tipo di cibo, una spezia, e poi mangiare quella stessa cosa e scoprire proprio di non poterne più fare a meno. Insomma, a tavola come nella società i gusti cambiano, parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani. Oggi indovinate chi viene a cena a Radio 24, per presentarlo e prima di metterci a fornelli con lui vi facciamo sentire una sua canzone che vi farà fare proprio un balzo in avanti dagli anni 60 oggi. Caro presidente, caro caro presidente, caro presidente, caro caro presidente, caro presidente, caro caro presidente, caro presidente, caro caro presidente. Più di mezzo milione di persone che vivono nascoste straniere in questa nazione. Ci sta Daniel, ci sta Mir, c'è Simone. Vogliamo i nostri diritti, non chiediamo un favore. Ci nasci, ci cresci, la ami, la vivi. A 18 costretti a fuggire come clandestini. L'Italia è più bella insieme a tutti i miei amici africani, orientali, cinesi e filippini. Il futuro adesso, questa è la realtà. Andate a guardare nelle scuole o nelle università. E se l'Italia è in Europa come Londra e Parigi, stesso sangue scorre dal Po fino al Tamigi. Ius solis, ius sanguinis, non fa differenza. Parlo di esseri umani che usano l'intelligenza. Caro presidente, una mano sulla coscienza. Se la sfida è il futuro, abbiamo perso in partenza. Caro presidente, l'Italia con noi migliora. Cittadinanza adesso come nel resto d'Europa. Caro presidente, caro caro presidente, caro presidente, caro caro presidente. Diamo il benvenuto allora ad Amir, rapper italiano di papà egiziano, mamma italiana. Buona serata, buona cena innanzitutto, Amir. Eccomi, buonasera a voi, buonasera a voi. Allora, siamo già ai fornelli con lei che ha scritto e cantato questa canzone, un inno, un appello al nostro Presidente della Repubblica Napolitano, e dopo ne parleremo. Ma intanto, che cosa cuciniamo stasera? Ma io ho portato due piatti, ovviamente, essendo figlio di una coppia mista. Mi ricordavo quando ero piccolo che andavo a trovare mia nonna da parte di mia mamma, che abitava in un paese qui vicino a Roma, e un piatto classico che si faceva la domenica erano le fettuccine con il sugo di carne, quindi le fettuccine con il ragù. Quindi questa è la mia parte italiana, è un piatto a cui tengo molto perché comunque mi ricorda anche le mie origini. E dall'altra parte mio papà, questa è una cosa curiosa, è stato sempre mio papà in casa che cucinava, a differenza di molte coppie. Mio papà era sempre quello che cucinava. Io ho questi ricordi di mio papà che si alzava la mattina presto, andava a fare la spesa al mercato a Piazza Vittorio, che è una zona di Roma veramente ad alta densità di cittadini immigrati da sempre, anche dagli anni 70. E quindi quando mio papà cucinava, io ero lì, ero curioso, guardavo quello che faceva, e gli ho portato un couscous, un classico classico couscous che in questo caso faccio senza carne, vegetariano, solamente con delle verdure. E mi sembra di capire che lei sappia anche cucinare, le piace anche cucinare, mescolare magari anche le varie culture dalle quali proviene. Assolutamente, è una mia passione, perché comunque in base alla mia storia personale, purtroppo quando ero piccolo non ho avuto un'infanzia molto felice, un'adolescenza molto felice. Mio papà purtroppo ad un certo punto è stato detenuto per molti anni, mia mamma non c'era quasi mai in casa, e quindi mi sono dovuto veramente trovare da solo a volte e iniziare a cucinare per mangiare. Quindi da quando avevo 14 o 15 anni mi sono sempre messo ai fornelli, ad oggi alla mia età cucino, ho sempre cucinato, mi piace, ho la mia passione. E lo faccio tutti i giorni per amici che vengono a casa, l'ho fatto sempre per la mia ragazza, questo è stato, diciamo, sempre il mio stimolo più grande, rendere felice la mia ragazza cucinando per lei, e poi per me quando sto da solo. Però vi svelo una cosa: quando sono solo a volte è il momento in cui mangio veramente anche pizza takeaway o cose del genere, perché mi piace molto cucinare per gli altri, per renderli felici. Lei è un rapper, si sente italiano innanzitutto? Italiano al 100%, romano, quando dicono immagino. Amir romano, ma italiano neanche, romano. Io sono molto legato alla mia città di Roma, però devo essere sincero, non ho la mentalità del romano che si sente migliore degli altri perché Roma ha una storia antica rispetto ad altre città, cosa che sento spesso in giro. Io mi sento italiano, ho sempre girato tutta Italia. La mia musica, se qualcuno l'ascolta attentamente, non è musica cantata in dialetto romanesco. Mi sono sempre impegnato, anche a differenza di altri artisti che provenivano dalla mia città, proprio a scrivere sempre in italiano, perché mi dicevo, io voglio arrivare a tutti, non voglio essere un artista locale, non voglio utilizzare dei termini particolari che poi possono capire solamente gli abitanti della mia città, ma i miei messaggi, soprattutto quelli legati al tema dell'integrazione, delle seconde generazioni, devono essere almeno nazionali. Allora, appunto, seconde generazioni, nuovi italiani, parliamo di questo, oltre che chiaramente di cucina e di contaminazioni. Abbiamo sentito proprio questo appello, caro Presidente, che è stato insomma un video appello che è passato, ha fatto un certo scalpore in rete, ha sortito anche il suo effetto, perché il Presidente Napolitano ne ha parlato, delle persone, dei nuovi italiani, dei diritti dei nuovi italiani, proprio nel suo messaggio di fine anno. L'ha stupita il fatto che ne abbia parlato così a reti unificate? Ma io penso che semplicemente sono stato un veicolo, io ho veicolato il sentimento di quello che c'era in più di mezzo milione di persone, come dico nella canzone. Non parliamo di piccole cifre, parliamo di mezzo milione di ragazzi che nascono in questo paese e che a livello legislativo faticano a sentirsi italiani, quindi semplicemente sono stato un po' il portavoce, che poi è quello che è la mia musica. Il rap è stato sempre, diciamo, si è sempre reso portavoce dei problemi degli altri, dei problemi della società, dei problemi dei ghetti americani negli anni 70, è nato in questo modo, io continuo a farlo nel 2013 qui in Italia. Sono contento, sono 10 anni che porto avanti questa causa, dal 2006 in cui uscì la mia canzone Straniero nella mia nazione, nel mio primo album Uomo di prestigio si chiamava, io già lì avevo iniziato e sono stato lanciato storicamente come il primo artista, rapper in Italia che rappresenta i ragazzi di seconda generazione. Allora, chiariamo innanzitutto la questione burocratica di chi magari vive, ha vissuto fino ai 18 anni in Italia, i ragazzi, i nuovi italiani, i ragazzi magari di seconda generazione, e poi invece al compimento dei 18 anni può magari rischiare di dover uscire dal paese, così, no? Sì, sì, sì. C'è una legge in Italia che, a differenza degli altri paesi, si chiama ius sanguinis. Quindi lo ius sanguinis cosa comporta? Che si può essere considerati italiani al 100% solamente se i tuoi genitori ti hanno trasmesso sangue italiano. Quindi si parla veramente di cose per me fuori proprio da logica. Ad esempio logica. Negli Stati Uniti, per chiarire a chi non lo sapesse, c'è invece lo ius solis, quindi praticamente chi nasce sul suolo è automaticamente americano, è cosa che in Italia non c'è. Voi chiedete che venga cambiata questa normativa? Certo, chiediamo che venga cambiata questa normativa, perché ci sono dei ragazzi, ad esempio come me, che sono stato fortunato, perché essendo figlio di una coppia mista, quindi mio papà egiziano, mia mamma italiana, ho avuto la fortuna, a 18 anni di poter prendere la cittadinanza italiana facilmente. Ci sono altri ragazzi, altri miei amici che hanno entrambi i genitori stranieri e quando arrivano a 18 anni devono fare una trafila burocratica che voi non immaginate, devono richiedere un permesso di soggiorno, andare la mattina a fare le file in questura con gli immigrati probabilmente che vengono da altri paesi e richiedere la loro cittadinanza quando loro dal primo giorno di vita al 18esimo hanno vissuto in questo paese, sono andati a scuola in questo paese, amano questo paese, tifano l'Italia quando giocano i mondiali e quindi secondo me dovrebbe essere una cosa automatica e diciamo il cavillo burocratico che crea dei problemi è proprio il fatto che tu devi testimoniare di essere stato dal primo giorno al 18esimo qui in Italia. Se tu ad esempio a 12 anni sei andato a vivere per un anno in un altro paese, già automaticamente quello crea un problema a livello burocratico. Lei è mai stato... Ma è stato in Egitto, parlavamo prima del couscous, quindi proprio della cucina anche dell'origine di suo padre. Ecco, si mangia un couscous diverso, cioè che attenzione c'è per il cibo in Egitto? Ma il cibo in Egitto è una cosa stupenda, perché comunque per me che vengo da una coppia mista ogni volta è una scoperta di piatti nuovi. Devo dire di essere stato proprio fortunato in questo, che mio papà in casa era quello che cucinava, quindi ogni ragazzo in famiglia, spesso qui in Italia è la mamma che cucina, perché il papà lavora, in una famiglia tradizionale, la mamma cucina, il papà lavora e ci si ritrova a pranzo e mamma ha cucinato. Nel mio caso invece era papà che cucinava, quindi mio papà ha sempre cucinato vari piatti egiziani, tantissimi, anche dolci o cose del genere, quindi mi è capitato di andare in Egitto poco, e lo dico, purtroppo ci sono stato poco, proprio perché non avevo mio papà vicino, però ti posso dire che assolutamente mi sento legato all'Egitto, ho sangue egiziano, ne sono fiero, però ritornando al discorso di prima, mi piace sentirmi italiano, sono italiano. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Dentro una pelle che è la mia corteccia e scudo, nulla rimane uguale. Quante lingue ho voluto imparare, qua e là, per entrare dentro la gente. La mia storia è una ragnatela di segni sulla pelle. Come dicono, siamo spugne noi mescolati. Mescolati viaggiatori. E non pensavo che finisse così. Da giorno ho messo piede qui. Sto lottando e non mangio. Se abbasso il mio sguardo, la mia pelle mi ricorda chi sono, un bastardo con qualcosa di nuovo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo. La mia pelle è del colore della terra e cambia quando è sotto il sole come inchiostro su un'agenda. Quando scrivo queste frasi è come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia. Quando incrocio le mie mani lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico là in alto mare. E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto, ha trovato il coraggio per scappare. Stiamo parlando con Amir, rapper italiano di papà egiziano e di mamma italiana. Questa è proprio una sua canzone, una canzone alla quale tiene molto, mi pare. Sì, ci tengo molto, anche per come è nata, anche la voce narrante che avete sentito all'inizio è di Cristina Ali Farah, una scrittrice, poetessa italo-somala. Veramente è stato per me un onore aver partecipato con lei. Questa canzone è una metafora, io ci tengo molto perché parla della mia pelle, la mia pelle rappresenta anche la mia vita e tutta la mia infanzia e quello che ho vissuto, perché quando si parla di colore, quando dicono sei un ragazzo di colore, io potrei essere di qualsiasi colore, io posso essere di un marrone più chiaro, tu puoi essere di un marrone più scuro, quindi volevo sottolineare che il colore della nostra pelle è semplicemente il frutto di tutto il nostro bagaglio culturale. Quindi io sono Amir, sono così, la mia pelle è del colore della sabbia. Questa era un po' tutta la metafora. È chiaro. Tra l'altro c'è uno spunto che voglio farle sentire, lo spezzone ancora del film dal quale prende il nome la trasmissione. Tu sei mio padre, io sono tuo figlio, ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto e te ne vorrò sempre. Ma tu ti consideri ancora un uomo di colore, mentre io mi considero un uomo. E questo era ancora Spencer Tracy, il protagonista di questo film degli anni 60, appunto, con faceva questo confronto faccia a faccia col padre molto duro, in cui dice appunto: tu ti senti un uomo di colore, io mi sento un uomo. Le è mai capitato di pensare o dire una cosa del genere a suo padre? No, purtroppo no, devo dire, purtroppo no, ma semplicemente perché io ho una storia particolare. Mio papà, quando avevo 3 anni, è stato detenuto per moltissimi anni, quindi diciamo sono un po' cresciuto da solo, io sono, posso dirlo, un uomo che si è fatto veramente da solo. La figura di mia mamma nella mia vita è stata veramente un punto proprio importante, un punto di riferimento. Mia mamma è stata quella che è riuscita a darmi tutta l'educazione, tutta la sicurezza che poteva dare anche mio papà. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. E non pensavo che finisse così, così. Da giorno in cui ho messo piede qui, qui. Sto lottando e non mangio. Se abbasso il mio sguardo, la mia pelle mi ricorda chi sono. Un bastardo con qualcosa di nuovo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo. La mia pelle è del colore della terra, cambia quando è sotto il sole come inchiostro su un'agenda. Quando scrivo queste frasi è come terapia, un uomo che si sente libero. Le è mai capitato alla situazione che viene raccontata nel film, quella appunto di una coppia mista, di una ragazza bianca che presenta i genitori, tra l'altro progressisti, un ragazzo di colore, e loro rimangono un po' scioccati? Forse di questi tempi non capita più. A lei è mai capitato? No, guardi, però le posso dire che mia mamma e mio papà, e mi piace dire questa cosa, sono stati dei pionieri. All'inizio degli anni 70, in Italia, in una città come Roma, mia mamma veniva da un paese vicino Roma, in Sosaria, che è una zona vicino a Roma, sì, certo, di campagna. Quindi da lì si è trasferita a Roma per lavorare. Ha conosciuto mio papà, che era venuto a Roma per studiare inizialmente, si sono conosciuti. Mia mamma veniva da una famiglia dove il nonno, il papà di mia mamma, era fascista, ma era fascista perché? Perché era partito, era andato in guerra, quindi aveva quella mentalità. Mia mamma, quando ha detto alla sua famiglia che si voleva sposare con un cittadino immigrato dell'Egitto, è stato uno scandalo, l'hanno proprio allontanata dalla sua famiglia, e lei ha combattuto, ha lottato tantissimo. Mia mamma e mio papà, una coppia mista, quindi mio papà egiziano, mia mamma italiana all'inizio degli anni 70, con tutte le difficoltà che ci sono state, anche dalla detenzione in carcere di mio papà, mia mamma è stata sempre vicino a mio papà fino all'ultimo giorno. Questo è l'amore, l'amore che abbatte tutte le barriere, abbatte il colore, abbatte tutto, la provenienza e l'estrazione sociale. Io in questo ci credo tantissimo, e quindi questa qui è un po' la mia storia, insomma. Brillo sotto il sole, soldi in tasca quanto basta, ai piedi scarpe nuove, e non c'è limite se scialla, sei il numero uno, hai il mondo in mano, se lo vuoi non ti ferma nessuno, è scialla e tu sei pronto, sorridi al nuovo giorno, talmente scialla tocchi il cielo, ci metti un secondo, è scialla come quando tutto va secondo i piani, io me la sento scialla, non rispondo se mi chiami. E questo è il trailer di un film la cui canzone è stata composta e cantata da Amir, il film Scialla del 2011, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Scialla, quindi, che significa scialla? Scialla a Roma si dice per dire stai tranquillo, guarda, c'è un dibattito tra me e il regista e anche su tutti quelli che hanno collaborato, che scialla potrebbe avere anche un nesso con la parola in arabo inshallah. Questo è un mistero per noi, lo stiamo capendo lo da sostiene tempo. Lei o lo sostiene il regista? Io gli ho detto che scherzo, ho detto al regista, gli ho detto Inshallah, e lui mi ha detto, beh, però vedi, potrebbe essere simile, perché Inshallah vuol dire se Dio vuole, se Dio vuole. Inshallah vuol dire rilassati, tranquillo, andrà tutto bene. A Roma si usa in questo modo, quando uno dice, oh, domani ho gli esami, vabbè, ma Inshallah, tranquillo, Inshallah è proprio rilassati e tranquillo, andrà tutto bene. E quindi era divertente questa cosa qui. Beh, questa partecipazione a questo film è stata una cosa importante, no? Molto, molto importante, mi ha portato ad essere nominato con David Donatello, Nastri d'Argento. Vi posso dire un piccolo aneddoto, la mia etichetta discografica, io adesso ho una mia etichetta discografica indipendente, si chiama Red Carpet Music. Io l'ho chiamata Red Carpet Music dopo essere stato sul Red Carpet del Festival di Venezia, per un rapper. Rendetevi conto la realtà di un ragazzo. Una bella soddisfazione. Come me. E certo. Una periferia romana, senza sapere veramente cosa poteva succedere, l'ho iniziato a fare per gioco, ritrovarsi al Festival di Venezia e camminare sul red carpet davanti a centinaia di fotografi è stato per me un trionfo. E quindi sono tornato a casa e ho detto, devo aprire la mia etichetta discografica e la voglio chiamare Red Carpet Music. È una partecipazione che avrà dei seguiti, voglio dire, collaborerà ancora con il cinema? Ci sono in questo momento sicuramente delle trattative, ma non posso svelarle. Sicuramente è un settore in cui mi piacerebbe tantissimo tornare a lavorare, perché è stata un'esperienza per me nuova, stimolante, molto divertente, perché faccio musica veramente ormai da 15 anni, ho fatto tantissimi album che potete trovare in rete, potete trovare ovunque. E con il cinema è diverso, perché con il cinema io ho dovuto scrivere sulle immagini, quindi non più Amir che scrive e tira fuori quello che ha dentro e quello che vuole dire, ma il regista che mi dice, Amir, questa è l'immagine, questo è il girato, devi tradurre questa immagine in musica. E sono stato fortunato, perché il film secondo me è una bellissima commedia, la storia un po' mi riguardava. Io ho un figlio di 12 anni, quindi il ragazzo che è nel film di Inshallah ne ha in quel film 16, quindi c'era veramente un nesso. Quando Francesco Bruni mi ha detto, Amir, devi scrivere una canzone che parla del papà, che in quel caso è Fabrizio Bentivoglio, il grande Fabrizio Bentivoglio, devi scrivere una canzone come se tu fossi il papà che mette in guardia suo figlio dalle insidie della vita. Per me è stato automatico scrivere una canzone e dedicarla a mio figlio, è stata una cosa bellissima, ed è una canzone che è nel film e si chiama Le ali per volare. E proprio è stato è come scrivere un brano per un mio album, questo sicuramente mi ha anche facilitato. Tutto a posto quando è scialla, brillo sotto il sole. Soldi in tasca quanto basta, ai piedi scarpe nuove. E non c'è limite, se è scialla sei il numero uno. Hai il mondo in mano, se lo vuoi non ti ferma nessuno. È scialla e tu sei pronto, sorridi al nuovo giorno. Talmente scialla, tocchi il cielo, ci metti un secondo. È scialla come quando tutto va secondo i piani. Io me la sento scialla, non rispondo se mi chiami. Quando è scialla, testa alta, ti senti un signore. Prendi, alzi la voce, non sei più uno spettatore. Io me la sento scialla, non c'è un'altra via d'uscita per averla vinta, mentre lotto contro questa vita. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il mondo fuori che aspetta, ma è scialla. Quanto va se come piace. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, paura, ma è scialla. Aspetta, aspetta, offro il telefono. Grazie. È scialla 24 ore su 7 giorni. Talmente scialla che quando esci non sai se ritorni. E ogni momento è buono, è scialla sul tuo trono. Ti senti un Renzi quando prima eri steso giù al suolo. È scialla come Luca, è scialla come Prince. Fino a qui tutto bene, come Said e Vince. È scialla perché tanto qua vivi una volta sola. Macchina gialla, quando sei con la tua gialla. È scialla come quando è grigio, non c'è più colore. Sei chiuso in casa, vivi scialla mentre fuori piove. È scialla come a scuola, entri in seconda ora. Quando sei con gli amici è scialla, la giornata vola. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Ehi, a scuola tutta buona. Ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il mondo fuori che aspetta, ma è scialla. No, non voglio questo qui, ma che senti io? Ehi, vabbè, ma Marchi, ma non è che... Ma però non c'è tempo, dai, te ne becchiamo. Fuori che aspetta, ma è scialla. Sì, ti voglio bene. E allora riepiloghiamo le ricette di oggi prima di chiudere.